c'è? Oh sì, abbiamo i microfoni. Vi siete persi una bellissima presentazione che non ripeteremo. Non ripeteremo mai più, ma noi siamo i Mozilla Bros. Gesù Cristo ci ha donato il dono dell'ubiquità, quindi siamo anche in replica su Radio Transizione di Fase lunedì alle 20. Su Fuori on the Radio il venerdì alle 16, anche se non è vero perché non ci ho mai sentito. E poi comunque oggi vogliamo precisare che è mercoledì e sono le 17 ed è appena cominciata la... Sono le 19, vero? Però sì, sono le 7, sì, dai. Questi doni dell'ubiquità mi hanno fatto sbalzare un po' il conteggio del tempo. Siamo i Mozilla Bros, siamo come sempre in missione per conto di Dio su Radio Ciroma 105.7 per chi ci ascolta a Cosenza alle 19 il mercoledì, oppure su www.mozillabros.com in streaming. E poi potete trovare i nostri fantastici podcast, magari introdotti da voci strane di sintetizzatori vocali. Qua abbiamo sintomi di autocensura. Noi vogliamo dire da subito che i Mozilla Bros sono per i rutti liberi. Certo. Ma lo sai che pure a me veniva un rutto e me lo sono ingoiato. Sì, perché mi vergogno di me. C'è il nostro regista che ha abbassato il microfono per ruttare. Dalla cabina di regia, mea culpa. Vediamo gli occhi accusatori di Ciccillo che ci bloccano sul nascere il nostro estro prorompente. Bene, siamo ritornati in trasmissione con una nuova puntata ricca di novità, di news nerd e di roba nerd in genere. Abbiamo come sempre tanto ottimo blues. E niente, siamo per iniziare, come al solito carichi al 100%. 10.000. Bene, ora mettiamo il nostro primo pezzo di oggi, traccia 4, visto che mi hanno suggerito di dire assolutamente il titolo, è artista sconosciuto. Rito. In realtà è il blues di Alex Cipollari, il nostro ospite della scorsa trasmissione. Ancora tuo cugino, e basta con sto spam. La canzone si chiama punto punto punto esclamativo, in realtà si pronuncia mm. Dopo il fantastico blues di Alex Cipollari con la canzone mm, dell'album Il Salto della Cipolla insieme a Simone Slim Scifoni. Siamo ritornati in onda, ricordiamo tutti che siamo in Mozilla Bros, siamo in missione per conto di Dio e siamo su Radio Ciroma 105.7 nell'area urbana di Cosenza, arriviamo anche fino a Tarsia. Addirittura. Addirittura. A sud non lo so, perché a nord invece sì. Dunque, ripartiamo con questa puntata carica di novità, ce la introdurrai tu, chiaramente come al solito, Marco. Oh no! Ma anche no. Però sì, innanzitutto dobbiamo dare qualche piccolo aggiornamento su le vicende del carrier IQ, che nella scorsa puntata avevamo detto ai nostri ascoltatori che praticamente questo carrier brutto e cattivo aveva installato dei programmini strani sui dispositivi di appena 150 milioni di utenti per spiarli, e ci sono alcune novità. Parleremo anche di Wikipedia, l'enciclopedia libera. Parleremo della PlayStation 3 senza Linux e parleremo di un sacco di altre cose che stiamo cercando in questo momento sul sito Punto Informatico, perché come ormai avrete capito da tempo le nostre news spesso e volentieri le prendiamo da là. Ma non solo, vero Garulf? È vero, abbiamo anche slashdot.org, che è un grossissimo sito, anche mi sembra che i suoi sorgenti siano anche liberi, e c'è anche una comunità che è un pochino, lascia commenti, è molto attiva, anche se a volte è molto prolissa, critica, pungente. Sì, tipo, io ricordo di un post fatto su Gnome 3, che è una cagata, chi non lo sapesse, un desktop environment sotto Linux. Mi ripeti environment? Gnome. No, environment. Environment. Beh, ha scatenato quasi l'ira di tutti quelli là, perché c'è molta gente che è contro Gnome 3. Io aspettavo il giudizio di Luca Bruno, sinceramente. Però non è Luca arrivato. Bruno è passato a Windows per questo motivo. Non esageriamo. Magari parleremo anche dell'Unical e dei suoi splendidi seminari su progetti fallimentari a codice chiuso come Windows Phone. Non sono affatto fallimentari, l'aula magna era piena. Caro Marco, e tu lo dovresti sapere. Sì, era piena perché infatti siamo andati, anche perché c'era un buffet offerto dalla Microsoft, che morti di fame ci hanno dato due panini con un po' di salame. E forse triste. Il seminario non è così grave come il fatto che io, per ricevere il mio PIN Unical, devo aprirmi un casello email su Live Messenger. Vabbè, lasciamo stare queste cose. E ricordiamo che i panini erano buggati, infatti avevano se li aprivi trovi la blue screen of death. E nel frattempo è arrivato il nostro grandissimo Andrea Blues. Il nostro altissimo Andrea Blues. Ciao a tutti, siete tutti qui alla grande come sempre. Vi ascoltavo e spaccate. E come con l'arrivo di Andrea Blues, ricordiamo la nostra formazione, appunto Andrea Blues, la nostra punta alta. Poi c'è sono Marco, Garolf e Cicillo in regia. Lorenzo Blues ovviamente non manca mai. C'è anche Ono Sendai. Ma cosa sento? Cos'è Garo? È dal lontano 1913 che arriva questa canzone. Non questa versione ovviamente, perché questa è di un film. Sì, perché questa è di un film e noi l'abbiamo conosciuta solo grazie a questo film. In realtà non siamo questi esperti di musica, ma all'inizio era stata per la prima volta scritta da... È una canzone... Insomma, ascoltiamola. Place where I was born and raised, the place where he was born and raised. For six long years I've been in trouble, no pleasure here on earth I found. No friends to help me now. He has no friends to help him now. It's fare thee well, my only lover. I never expect to see you again. For I'm bound to ride that northern I'll die upon this train. Perhaps you'll die upon this train. You can bury me in Sunbeam Valley for many years where I may lay. I'm sleeping in my grave. While he is sleeping in his grave, maybe your friends think I'm just a stranger. My face you never will see no more. But there is one promise that is given. I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. E questo era Man of Constant Sorrow, direttamente dalla colonna sonora di Fratello Dove Sei, il film di, dei fratelli Coen, che è bellissimo fra l'altro. E vi consigliamo di vedere, quindi. Quindi scaricatelo subito stasera. Ovviamente sì. Però in realtà è una, una canzone tradizionale americana che è stata per la prima volta registrata da Dick Barnett, un violinista mezzo cieco. Bene, ora possiamo passare un pochino alla nerdaggine di questa trasmissione. Sì, sì, ebbene sì, a parte che abbiamo un'ultima news dell'ultimo momento che apprendiamo stranamente via Twitter, che sembra esserci stato un terremoto nei pressi di Rende. Comunque su Twitter alcuni nostri amici ci dicono di sì, ma a Ciroma, solidissimo a Ciroma, se sentite scosse venite a Ciroma che a quanto pare non crollerà mai. C'è qualcuno che in questo momento sta dando le proprie mani per fare gesti molto scaramantici in tutta la regia. Comunque passiamo un attimino alle news nerd, perché c'è un interessante e forse un po' inquietante aggiornamento riguardo il carrier EQ, che come avevamo detto la scorsa puntata, questo carrier andava a installare un vero e proprio rootkit, cioè un programma per spiare tutte le attività degli utenti. In ben 150 milioni di smartphone è stato trovato questo software, e praticamente questa notizia ha suscitato un vero e proprio terremoto, appunto. E molti si sono prodigati per cercare nuove informazioni, e nella fattispecie il sito MacRock aveva inviato all'FBI una richiesta di diffusione pubblica di informazioni riservate, basandosi su il Freedom of Information, o cosiddetto FOI, in merito ai manuali, ai documenti e alle altre guide scritte usate per accedere o anche per analizzare i dati questo rootkit andava a prendere. Beh, la risposta dell'FBI riguardo alla diffusione di questi dati è stato un bel cazzi. No, non ve li diamo assolutamente. Perché a quanto pare la documentazione corrispondente alla richiesta è documentazione legale, ovvero ci sta un procedimento legale in corso, dice l'FBI, e quindi i manuali del carrier che ne fanno parte non possono essere resi pubblici. Questa risposta apre numerosi interrogativi strani, ovvero l'FBI sta usando, ha usato o userà questi dati per varie azioni investigative. Ma ci fidiamo dell'FBI, dai. Chi non si fida? Non fidarti dell'FBI, ma abbiamo un collegamento telefonico. Ci senti? Pronto? Pronto? Incredibile, direttamente da Roma. Da Roma. Carlo! Sì, sono qua. Buonasera a tutti. Ci manchi, Carlo. Lo so, anche voi mancate a me, ragazzi. Io purtroppo ho fatto una telefonata velocemente, che sono davanti alla metro. Ho detto, oh, adesso mai più. Come sei cittadino urbano tu ora? Carlo, cosa combini a Roma? Io cosa combino? Ci sto lavorando. Gli emigrati tecnologici. Gli emigrati, sì. La fuga dei cervelli, Allora, cervello non lo so, però va bene. Forse, essendo tartaruga di mare, forse ho solo un flusso migratorio È un flusso migratorio che forse prima o poi si sposterà. Diciamo che sei nella stagione degli amori, quindi stai andando ad accoppiarti e a depositare le tue uova al Colosseo. Beh, infatti sono proprio davanti al Colosseo, però non ho uova da depositare comunque. Meno male che non hai uova, Carlo. Questo significa Non lo so. Che sei un maschietto. Vedremo. Ma quindi di cosa ti occupi ora a Roma, Tarlo? In pratica sto lavorando in un'azienda, sono sviluppatore. Cosa sviluppi? È una parte di un grosso progetto. Top secret FBI. Misterioso il nostro Tarlo. FBI, politiche dell'azienda, no. Diciamo che l'azienda politiche dell'azienda, purtroppo non posso dire di più. Per la sicurezza nazionale, diciamo. Sì, purtroppo non posso dire di più, però stai sviluppando un'applicazione porno per Android, dici la verità. No. Per Windows. Al momento ancora no, non è per Android. Magari qualcosa di porno c'è pure, però sai com'è. Incredibile. E voi ragazzi, purtroppo io non ho modo di sentirvi, non so di cosa stai parlando. Male, malissimo. Lo so, lo sentirò lo streaming, dai. No, ti sarà vietato. Sentirò il podcast tra qualche giorno. Comunque vi annuncio che ci vedremo molto presto. Sì? Avverrai? Sì. Accadrai? Tipo Gesù? Accadrà, sì. Risusciterai dopo 3 giorni? Sì, dopo 3 giorni esattamente, sì. Capirete perché molto presto. Bene, Tarlo, siamo felicissimi di sapere che sei vivo. Sì, sono vivo e non vi dimentico. Mi raccomando. Mi raccomando a tutti quanti. Vabbè, ragazzi, vi saluto, dai, devo scappare ora. Vai, Tarlo, conquista Roma. 4.000. Vabbè, ci sentiamo. Ciao a tutti. Diffondi il verbo de Mozilla Bros, caro Tarlo. Non dimenticarti dimenticarti della tua nerdaggine insita in te e del blues che veglierà sempre. Ragazzi, Marco, posso fare la richiesta di un pezzo? Addirittura, tu provaci. Sì. Io provo, ci provo, voi vedete se vi potete attrezzare. Richiedo da dedicare a tutti gli ascoltatori Pinball Wizard dei TV. Ovviamente no! Grazie. Forse prego. La prossima puntata. Grande Tarlo. E infatti adesso il nostro Cicillo ci manderà il pezzo richiesto da Tarlo degli U. Ma anche no, diciamo che non sempre ciò che Tarlo domanda gli viene dato. E dobbiamo dire che ci seguono in tanti oggi, forse arriveremo addirittura a 4.000, caro Lorenzo Blues. C'è la speranza. Sicuramente 3.000 ci ascolteranno. In 3.000, i 3.000 sono oramai fissi, sì, per lo più provengono dal nord, da Milano. Forse Milano, sai, sono lombarde. I restanti 4.000 provengono da provvediamo Cosenza. Noi facciamo la zona di Cosenza, quello che possiamo, certo. Il nostro piccolo. E ci dovrebbero ascoltare dei nostri amici, delle nostre amiche, che addirittura, caro Garuf, ci ascoltano oltre Alpe. Cioè sono qua su Cosenza e ciù di noi, ma provengono da fuori. E un saluto ad Alessandra e ad Elvira, rispettivamente dalla Polonia e dalla Spagna. E come accogliamo? Come se la cura questo Andrea? Ai ai ai ai ai, chi blues? Beh, diciamo che accogliamo col blues gli ospiti nella nostra Cosenza bene amata. E come farlo nel miglior dei modi se non mettendo un pezzaccio della Madonna? È un pezzo che Tarantino ha usato in uno dei suoi celeberrimi film, e questo è addirittura Grindhouse Blues. Ia, chi blues che tieni, no? Bene, questo veniva preso da Planet Terror, un film di Rodriguez, prodotto da Tarantino e Rodriguez, gemellato con Prova di Morte. Era un dei film che erano in omaggio ai film d'exploitation degli anni 70, di cui sicuramente il nostro carissimo Emiliano è super mega fan scatenato. Erano film che si basavano su scene molto crude, violente o di sesso per andare nei cinema di serie B ad attirare un sacco di gente. Spesso venivano vietati, ma queste ai minori di 8 anni, ma era solo una scusa per far venire più gente. Per esempio la famosissima Isola dei Cannibali, dove verso la fine una tipa viene impalata nuda in un palo e sbranata. Insomma, scenette simili. Wow. Comunque, in questo film la cosa più bella era la protagonista, che al posto della gamba aveva un mitra, quindi che cosa di più arrapante se non questo? Beh, io pensavo dicessi la colonna sonora, però va bene. Comunque, anche dai, siamo in radio, c'è stato un minimo di terremoto, diamo due informazioni. Sì. Praticamente no, c'è stata una cosina dei 3.1 della scala Mercalli o Richter, insomma, di magnitudo 3.1. Che però era a 5 km l'epicentro da Rende, quindi per questo si è sentito così forte. Però poteva anche andare peggio, perché su Twitter dicono che per esempio in Papua Nuova Guinea, sempre oggi, c'è stato un terremoto di magnitudo invece 7.1. Quindi, su, non lamentiamoci. Grazie al nostro sismologo Marco Nosendai. Ritorniamo con le nostre news nerd. C'è un cicillo scalpitante in regia che freme per darci qualche notizia. No, vabbè, la cosa importante, diciamo che ieri, stavo prima chiedendo aggiornamenti a Marco, visto che siamo andati assieme, ieri c'è stato un bellissimo... Fantastico. Entusiasmante. Eiaculante. seminario tenuto dalla Microsoft, o meglio, della Microsoft, non tenuto dalla Microsoft, perché il tizio che l'ha fatto in realtà... Era un evangelist. Un evangelist, adesso si chiamano così. Evangelist? Come, sì, come testimoni di Geova, probabilmente. Oh mio Dio. Mi dicevano questo pomeriggio colleghi nostri in 80H, che salutiamo, che c'era il tizio della Microsoft con la colonnina Microsoft, però dietro aveva il computer della Apple. No, non mi sembra che il computer fosse... Mi sembra che era un Sony Vaio, giusto per non fare pubblicità, ma tanto non ce ne frega un cazzo. Mini Vaio, forse. Vabbè, insomma, la cosa che abbiamo trovato interessante è stato che l'università, luogo di sapere libero, chiaramente, che cosa va a fare se non un bel seminario su una tecnologia chiusa e fallimentare, perché questo lo aggiungo io. Come Windows Phone? No, ma ne avete anche tutti quanti testimonianze che Windows fa schifo. No, no, Windows è un ottimo sistema operativo, mi permetto di dissentire. Sì, sì, infatti tu usi solo Windows. Però diciamo che se uno studente dovesse iniziare a sviluppare app e poi scegliere fra piattaforme più o meno aperte con già milioni e milioni di utenti, pensiamo per esempio a Android, che non è il massimo, però già per esempio ha avuto nell'ultimo anno mi sembra più o meno 1 miliardo di download. Perché sviluppare per queste piattaforme quando invece c'è Windows quando Phone? Quando c'è Windows Phone, che ricordiamo, appena la Nokia ha annunciato di adottare per i suoi cellulari Windows Phone, c'è stato un crollo in borsa della Nokia, quindi perché non adottare? Certo, sarebbe un modo per non andare incontro a quelle che sono le tendenze della borsa, però insomma, anche questo è un indice di... Che poi era anche un po' sospetto, perché diciamo il CEO della Nokia fino a qualche mese fa prima lavorava per Microsoft, quindi coincidenze più che una cosa sospetta. Vabbè, diciamo che insomma, al di là dello scherzo, continuiamo a vedere, perché ogni anno se ne tiene almeno uno di seminario che interessa prodotti Microsoft. L'anno scorso mi sembra che ci fu la volta di Windows Azure e poi altri seminari su videogiochi. C'è stato un terremoto a Roma, esatto. Non siamo fuori dal mondo, non siamo in un posto sicuro, anzi stiamo per scappare. C'è stato un terremoto, qua sta tremando tutto. E quindi insomma continuiamo a vedere come la tendenza dell'università, di un'istituzione pubblica, dove appunto bisognerebbe costruire quello che è un sapere libero e a 360 gradi, vada invece verso tecnologie proprietarie chiuse, se non per accordi commerciali. Questo mi ricordo che con Marco, con Ono, il terzo, sì, 2 anni fa ci andammo a fare un giretto per gli uffici dell'amministrazione dell'università, per cercare di capire un pochino quali erano gli accordi tra la Microsoft e l'università, perché forse non tutti voi sanno che all'Unical, appunto come anticipava già Garulf, Le caselle di posto degli studenti sono sulla piattaforma live e inoltre, cosa diciamo graditissima agli studenti, è possibile per gli studenti scaricare prodotti della Microsoft gratuitamente. Che culo. Eh sì, bisogna avere culo nella vita. Diciamo che noi studenti dell'Unical ne abbiamo parecchio. Sì, chiaramente poi a noi ci dicono gratuitamente, magari li paghiamo con le tasse. Assolutamente. Proprio diciamo a questo genere di domande che facemmo ci fu posta un'altra domanda. Voi cosa siete? Una domanda che mi ha turbato per almeno 5 anni e continuerà a turbarmi, penso, per tutto il resto della tua vita. Perché non ho avuto la freddezza di rispondere: "Buh, sono un essere umano." Sono rimasto zitto. Potevi dirgli: "Sono un sistemista venuto dal futuro." Comunque, davvero, la questione è abbastanza delicata, visto che non riusciamo in nessun modo a introdurre quello che è il software libero all'interno dell'università. A livello ufficiale. A livello ufficiale, perché per esempio i laboratori di informatica, di ingegneria informatica, non so delle altre facoltà, ma credo che sia ingegneria informatica segue questa via. Forse solo informatica, magari Ulf ce lo potrebbe dire meglio, dato il software libero, ma non credo. In ogni caso continuiamo a spingerci verso piattaforme chiuse e proprietarie, dove appunto la libertà di utilizzo e sviluppo del codice non esiste. Devi prenderti quel che è, per di più, per quanto mi riguarda, le cose non funzionano sviluppate da questa azienda, quindi... E tra l'altro sprechi soldi che potrebbero essere investiti tipo anche in borse di studio o in cose più utili, tipo lampioni colorati in licenze e stupidaggini simili. O in lampioni sulle strade che di notte sono impraticabili perché la gente ci va a 4.000. A 4.000, sì, esatto, e rischiano di zamparti. Tutto questo mentre la commissione bilancio invece ha approvato un emendamento proposto da un deputato dei radicali che valuta la possibilità di inserire all'interno dei bandi di gara anche il software libero da adottare nella pubblica amministrazione. Diciamo che non è il massimo che ci si potrebbe aspettare, però insomma è una piccola minuscola apertura verso quello che è il minimo. No, perché il minimo si potrebbe fare molto di più, però insomma diciamo la tendenza di un'istituzione pubblica come l'università va proprio direttamente dall'altro lato rispetto a quello ma tanto poi diciamolo, per quanto si sforzi ormai sono abbastanza spacciati. Alla fine, parlando durante il buffet a quattro occhi con il tipo che con l'evangelizzatore, sì, ci ha confessato che in fondo è frustrante e non ci crede nemmeno lui in questo Windows Phone. A dire il vero, durante il seminario e Marco attendevamo con ansia la mitica schermata blu, che però purtroppo non si è verificata, a parte qualche sfarfallamento dello schermo durante la presentazione. Bene, direi che adesso possiamo passare al prossimo pezzo che Garuk ci introdurrà. Ok, questo qua li introdurrà dopo il nostro mitico Engo. Someone else. E questi erano i mitici Creedence Clearwater Revival, un gruppazzo degli anni 60 e 70 e non solo, direi, della storia, con Before Accuse Me dell'album Cosmos Factory. Parliamo un po' dei Creedence. Lorenzo Blues, tu che cosa ne pensi innanzitutto dei Creedence? Sono un gruppaccio, come al solito. Parlane un po', che, non di loro, non so niente di Creedence. Lorenzo Blues, ma vergogna che per Lorenzo Blues. Che posto hanno nella tua classifica blues? Ma il blues, non diciamo che ci sono vette da scalare prima che arrivino loro. Semplicemente questo. È come se la tira Lorenzo Blues. Sì, i Creedence nascono, si può dire, nel 67, quando i Gollywogs cambiarono definitivamente il nome in Creedence Clearwater Revival, dando inizio al loro mito, prima chi li cacava, e poi sono diventati quello che sono diventati. Questo è uno dell'album più importanti, molti li ricorderanno col pezzo Have You Ever Seen the Rain? Da italiani, perché comunque lo siamo, raramente passiamo un pezzo italiano, caro Lorenzo Blues, esatto. Presto lo dovremmo fare. Ne ha rifatto una cover. Veramente abbiamo passato i pezzi di Alex, che è un grandissimo bluesman italiano. Forse sì, uno ma dei pezzi pochi in italiano siamo carenti. Vabbè, e dobbiamo portare in auge la musica del nostro paese, mi sembra giusto. Certo. E quindi ricordiamo che Mango ha fatto la cover del pezzo più famoso dei Creedence Clearwater Revival, ovvero Have You Ever Seen the Rain? Pezzo da ascoltare, anche la versione di Mango Lorenzo Blues, ascoltiamola. Hai mai visto la pioggia? Ascoltare. Diciamo. Hai mai visto la pioggia tu? Hai mai visto la pioggia cadere in una giornata di sole? Perché ovviamente il blues è sempre poesia. Chiaramente. Noi siamo il blues e il nerd, siamo la mente e il cuore. Noi siamo i Mozilla Bros. Siamo la voce e il battito della nota, dell'anima. Vabbè, ma non ce la tiriamo. Siamo il blues nerd. Esatto, di Cosenza. Siamo i Mozilla Bros, siamo in missione per conto di Dio. Ricordiamo, siamo su Radio Ciroma 105.7 www.mozillabros.com. Nel frattempo salutiamo il nostro amico Rest, che dopo due trasmissioni che ci ha contattato via telefono è venuto a trovarci. Vi ho raggiunto, vi ho raggiunto. Non potevo resistere al richiamo del blues, non potevo resistere al richiamo nerds, di tutto ciò che non si vede ma c'è. Bene, penso che a questo punto possiamo passare tranquillamente con il prossimo pezzo. Come no? Qua dalla regia non siamo pronti, va bene, allora. Come non siamo pronti? No, non siamo pronti. Allora a questo stiamo punto diciamo improvvisando. Che, sì, stiamo improvvisando alla grande. Diciamo che mi state censurando tutte le canzoni che ho piazzato. C'è solo un problema tecnico con il programma, che ancora non siamo cazzi di usarlo. Comunque il problema è che ecco, ci manca Natale, diciamo. Volete questo software libero? E mo tenetevelo. No, non si tratta di No, il problema è di Garulf libero, che comunque, dopo aver letto queste bellissime informazioni sui Creedence da Wikipedia, annunciamo una notizia abbastanza dark. Su Wikipedia. Pare che Jimmy Wales, appunto il fondatore, Giovanni Balene. Bravissimo, vedo che il nostro amico Lorenzo è attentissimo alle traduzioni. No, ma è il vero nome, Giovanni Balene. La traduzione, perfetto. Abbia annunciato la possibilità che tutte le pagine in lingua inglese possano scomparire, così come è successo in Italia qualche tempo fa, non so se ve lo ricordate, in occasione del decreto sulle intercettazioni che avrebbe cancellato praticamente di fatto il mondo del blogging e del web libero in Italia. La stessa cosa sta avvenendo negli Stati Uniti, poiché appunto sta passando è in discussione alla Camera dei rappresentanti un criminale, l'ennesimo criminale tentativo di censurare la rete, denominato SOPA, il cui acronimo sta per SOPA, vabbè, dai, Stop Online Privacy Act. Acta, che ricordiamo abbiamo parlato per tutta la stagione scorsa di Acta, quindi non vi ricordiamo più niente di Acta. Che in sostanza prevede innanzitutto la creazione di una blacklist per cui gli ISP potrebbero bloccare appunto gli indirizzi e i siti raggiungibili all'interno di questa blacklist, e addirittura la cancellazione da parte dei motori di ricerca di questi indirizzi che vengono dichiarati illegali, pericolosi, insomma. Cioè vorrebbero far sparire alla faccia della rete tutti i siti che in un modo o nell'altro, secondo poi non si sa chi, sono legati alla pirateria. diciamo che il criterio è oscuro. Chi ci sta dietro sono chiaramente, come al solito, le major cinematografiche. Però c'è da dire che comunque ai governi fa sempre comodo censurare la rete. E ogni scusa è buona, dalla pirateria alla pedopornografia, passando per Garulf, gli attentati terroristici. Comunque ero tutto entusiasta che avevo riuscito a capire finalmente come mettere gli sfondi, che mi sono accorto che ogni tanto vanno messi anche i pezzi. E quindi però adesso vorrei passare un attimo un classico, non so se l'abbiamo già passato. In questo caso sono gli Jefferson Airplane, White Rabbit. Che sfondo, siamo svoltati all'elettronico, in Massive Attack. Marco, volevi dirci qualcosa, no? Volevi parlarci di qualcosa tu? Sì, volevamo, però questo sfondo mi turba un po', mi ha un po' scioccato, però mi piace. Niente, stiamo parlando di censura e censori, praticamente. Se da un lato abbiamo gli Stati Uniti con SOPA, che con la scusa della pirateria vogliono fare l'ennesimo tentativo di mettere un bavaglio alla rete, dall'altro abbiamo, sembra abbastanza una minchiata dell'Unione Europea, un piano contro la censura, la cosiddetta No Disconnect Strategy, che praticamente questo piano che dovrebbe sviluppare tecnologie per tutelare i diritti fondamentali dei navigatori della rete che vivono in paesi non democratici. Infatti una squadra di intelligence sembra che starà a controllare i controllori della rete. Ora, a parte che ancora non è uscito nulla di pratico su questa cosa, a noi ci puzza già, diciamo. Sì, cioè dal mio punto di vista è l'ennesima cosa ipocrita, perché già l'Unione Europea invece ha fatto parecchie mosse, ogni singolo stato, per invece censurare la rete, per disconnettere, ricordiamo la Adobe francese per esempio, disconnettere chi veniva beccato per 3 volte di fila a scaricare materiale, esatto, illegale. Appunto, ricordiamolo che come scusa per utilizzare la censura, questi qua adoperano la pirateria a spada tratto. Diciamolo che noi invece siamo super a favore della pirateria, l'avremmo detto in miliardi di puntate in cui abbiamo parlato miliardi di volte di censura. però ci piace, ne andiamo fieri. Tra cui il nostro motto, voi la chiamate pirateria, noi la chiamiamo libertà. Esatto, mentre invece sono altri paesi dove che sono molto più civili da questo punto di vista, in cui scaricare non è reato. Tipo la Svizzera, tipo, ce l'ha detto Ciccillo la scorsa puntata. Tipo la Spagna, per esempio. Però è interessante vedere come, mentre da un lato anche in Europa o i cosiddetti stati democratici cercano di imbavagliare la rete, perché comunque da un certo punto di vista fa paura, ricordiamo pure durante i riots inglesi di qualche mese fa, per esempio Cameron aveva proposto addirittura di bloccare o censurare i social network dove venivano scambiati messaggi per coordinare queste azioni e cose simili. Però invece fanno sempre la bella faccia quando si parla di stati dove palesemente non democratici, chiamiamolo così, dove invece le censure vengono fatte apertamente per scopi politici, dissidenti politici, eccetera eccetera. Però diciamo che forse il fine è lo stesso, però usano scuse diverse. Da noi sono più democratici, nel senso che ce lo dicono in modo più carino, ci fanno pensare che lo fanno per noi. Bene, quindi? E quindi adesso secondo me è arrivato il momento della trasmissione. Il momento? Il momento. Il momentaccio. Con la il maiuscola. Con la il maiuscola. Tipo chi... un evento più evento del terremoto di prima. E chi lo vuole introdurre? Io non me la sento. Ciccillo, Ciccillo, con il suo buonasera. No, Ciccillo, Andrea. No, cioè, ma... lasciate a me questo compito difficilissimo, certo, fatemi capire. Perché, guarda, ti... Vogliamo... No, l'unica cosa, un momento solo, vorrei capire se si tratta del solito duetto oppure c'è un trio con una chitarra. C'è la chitarra? No, non c'è la chitarra. Allora si riproporrà il duetto Andrea Blues, il cantante, che adesso si esibiranno nella loro nuova performance. Namo, raga. Buonasera. Posso fare due canzoni? Sì, che le puoi fare. Certo che le puoi fare. Fai buonasera. E questa è prima una speciale di Natale, mo che sta per arrivare. Natale sta per arrivare? Sta per tornare Natale? Ah, bene. Natale la prossima settimana arriva. Ah, faccio allora quella di Planet Funk prima. Che vai, vai, vai. Cantanti toscani, però cantano in inglese. Emma... is I will be me less die. I will self be less die. Emma is I will die. LLM less die. Emma. Così fa. Asa. Is I will be die. I will say Emma is I. I Emma live as I will say women's die. Emma. Questo e questo era solo un assaggio, perché adesso c'è il secondo round. Dopo l'invocazione di Emma, che non sappiamo chi è, ma evidentemente lui lo sa e sicuramente ci starà ascoltando, ci vuole fare un augurio di Natale, ci dice il cantante, anche con anticipo, sì, con un pezzo che tutti conosciamo e di grande spessore. Andrea, che cosa canti adesso? Mo canto la ciliegina sulla torta, una canzone di Natale. Ma di Natale, Natale chi? Di Natale che sta arrivando ora. Da dove sta arrivando? È un altro poco, si sta sentendo. Ma viene da lontano? Sì, Babbo Natale. Aspettando Babbo Natale, il cantante. Non so chi la canta questa canzone, mi hanno detto Michael Jackson, ma non lo so. Vabbè, canto. We are the world. We are the children, we are the ones che per te sole son give. I'll say full, we'll ever fall away, will you, I will still be me. We are the world, we are the children, we are the ones che per te sole so give. I was a fool. Well, ever far away, Alice, I will for thee. We are the war, we are the war, we are the children, we are the children, we are the war. Seki per te sole so give, Alice, fele, I will serve only you. I love for me. Incredibile, questo era il nostro cantante. Ci ha fatto entrare proprio in gamba tesa nello spirito natalizio. Bellissimo, bellissimo. Più che altro ci è entrato in gamba tesa sullo spirito. Canzone natale. Di Natale, per Natale, a Natale. In Babbo Natale. No, ricordiamo. Dentro Babbo Natale. Ricordiamo Natale tra una settimana. Ecco che ci telefono. Un attimo di suspense perché riceviamo telefonate. Forse è un ingaggio per il cantante. Forse, o forse è una denuncia dei carabinieri, non sappiamo. Sta per andare in onda. No, no? Si è pentito. Sono bellissime queste scene perché noi dal piano di registrazione vediamo quelle in regia che e possiamo solo intuire cosa stanno dicendo. Comunque ricordiamo a tutti che quando il nostro Natale si deciderà, uscirà in esclusiva mondiale sul sito mozillabros.com i due dischi del cantante. Ovviamente questo pezzo lo troverete nel secondo CD dal titolo Buonasera signorini, ti hai visto la Top Flight? Credo. Esatto. Non sono ben ferrato perché ancora non sono usciti questi CD. Ovviamente liberamente scaricabile, totalmente copyleft free. Ma anche no. Nel frattempo ringraziamo l'ascoltatore anonimo perché mi sono scordato di chiedergli il nome mentre mi ha chiamato, che ci ha chiamato facendo i nostri apprezzamenti sulla trasmissione dicendo che siamo molto simpatici, a parte uno solo ha detto, però non sappiamo chi si riferisce. Per chiunque voglia chiamarci nuovamente, siamo orgogliosi e fieri di passarvi in onda. Non siete timidi al 0984 28 25 0. E adesso sta arrivando un pezzo, direi, storico. Il Led Zeppelin. Questa è Nobody's Fault. Wow, lots of love. You need to live, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, wanna hold. Soviet, Soviet, Soviet. E siamo ritornati in linea. Qui siamo sempre i Mozilla Bros. Bene. E siamo giunti alle conclusioni, alla conclusione della puntata. Volevamo fare gli ultimi saluti, se non sbaglio. C'è Garolf che voleva fare qualche saluto, se non sbaglio. Sì, in realtà sì. Io volevo dire che tutte le musiche che ho passato io, brutte, belle, con difficoltà tecniche allucinanti, sono prese da una cartella che si chiama Musica Franco, perché me l'ha data Franco, che forse sta ascoltando la trasmissione, forse no. Grazie Franco. Grazie, però Franco, lo ringraziamo tantissimo. Bene. Che dire? E ora la canzone sorpresa. Non sappiamo neanche noi com'è. Bene. Non sappiamo se parte. Non sappiamo se parte. È una sorpresa. Va bene, qui partirà? Siamo in Mozilla Bros. Stiamo ricordando che la prossima puntata è la puntata giusto il giorno prima che venga Natale. Il giorno prima di Natale. Incredibile. Prossimo mercoledì. Mercoledì 21. Sì. Prima dell'arrivo di Natale, sì. Esatto. Vi lasciamo con questa suspense. Vi lasciamo. Mercoledì quindi prossimo. Ci vediamo mercoledì prossimo. E vi salutiamo. La canzone sorpresa, ragazzi. Non è partita. Non è partita. Come quindi? No? Mamma. Va bene, ci teniamo in sottofondo di Rawhide dei Blues Bros. È proprio una sorpresa. Ciao Gesù! È più che altro un pacco. Un pacco regalo, ecco la sorpresa. Vogliamo il Natale anche nella regia. Ciao Gesù! Gesù pompa. Anche se agli sgoccioli, ricordiamo che state ascoltando i Mozilla Bros. Ogni mercoledì dalle 19 alle 20 in nostra compagnia col blues, informazione, cusenza e ciotie. Un abbraccio. Move them on, hit them up, move them on, raw hide, cut them out, ride them in, cut them out, ride them in raw.